America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. She's up 53-44, so marginally down a couple of points, but within the margin of error, but she's very strong as she has been with older voters. Beh, avete sentito, Sanders ha vinto in Michigan, ha battuto Hillary Clinton. Ecco, devo dire che la notizia politica di oggi, in questo lungo processo elettorale americano, non riguarda tanto la vittoria di Trump, che invece c'è stata solida in Michigan, in Mississippi, ma la perdita di Hillary Clinton contro Bernie Sanders, appunto, in Michigan. Invece direi che per Trump le cose si stanno consolidando ancora di più. Sentiamo il suo discorso ieri quando ha parlato ai suoi elettori ringraziandoli per la vittoria. Sometimes we'll do it for fun, and they'll start screaming at me, do the swearing. I mean, they're having such a great time, they're massive crowds. Ecco, intanto c'è una piccola novità in questo messaggio di ieri di Donald Trump. Ha cominciato a parlare in terza persona, quindi ha cominciato a dire: chi ha vinto? Ha vinto Trump, gli altri mi attaccano, però è Trump che vince. Che è un segnale, come dire, di questa sindrome della personalità che in qualche modo lo ha aiutato perché esprime una straordinaria sicurezza in se stesso, esprime un forte senso di leadership che, devo dire, gli altri candidati non hanno come a lui, e dunque riesce a conquistare questo pubblico della base repubblicana che è una base repubblicana disillusa. Dov'è Trump in questo momento? Ha vinto addirittura 14 stati, quindi è molto più avanti in termini di stati vinti rispetto a chiunque altro, rispetto sicuramente a Cruz. Certo, la sua strada verso la nomination è più lunga di quella di Hillary, perché la distanza tra lui e Cruz è di alcune, diciamo, un 60-70 delegati. Però se farà bene la settimana prossima, soprattutto in Florida e anche in Illinois, naturalmente, la sua nomination diventerà ancora più scontata. C'è un aspetto interessante in tutto questo, perché sono tutti contro Trump. Ve lo raccontavo l'altro giorno, Mitt Romney, che era stato il leader del partito, che ha vinto la nomination repubblicana nel 2012, è sceso in campo contro Trump. Michael Bloomberg, nel momento in cui ha annunciato la rinuncia alla sua nomination, o comunque la rinuncia alla sua corsa presidenziale, lo ha fatto dicendo che lui era assolutamente contro Trump, e l'idea che partecipando alle elezioni potesse in qualche modo agevolare Trump lo ha convinto a non scendere in campo. Quindi sono un po' tutti i membri della leadership contro questo candidato repubblicano. Ci sono varie interpretazioni per spiegare il suo successo. Per esempio, sul Financial Times Gideon Rachman ha cercato un paragone con Reagan, dicendo: in fondo cerchiamo una linea difensiva nei confronti di Trump, perché tutti lo attacchiamo, però pensiamo a quello che capitò alle elezioni del 1980, quando tutti attaccavano Ronald Reagan, tutti erano inorriditi dal fatto che questo attore potesse diventare presidente degli Stati Uniti. Vero, c'era questa sensazione generalizzata, però Ronald Reagan era stato governatore della California, era parte integrante del partito, di una nuova corrente del partito, di una nuova coalizione, aveva lavorato nel sindacato degli attori, insomma aveva fatto politica per molti, molti anni. Io direi che il paragone più calzato, invece, è quello con George Wallace. George Wallace era il governatore razzista dell'Alabama. Tra l'altro era un democratico, attenzione, non era un repubblicano. Però negli anni 60, nel pieno del movimento per l'emancipazione degli afroamericani, riuscì a costruire una coalizione fra populisti e segregazionisti del Sud e a vincere appunto il governatorato del Mississippi e poi a diventare un credibile concorrente per la nomination democratica, che poi però non riuscì a vincere. E dunque preoccupa per questo la candidatura di Trump, e ce lo spiega molto bene Tom Friedman. Questa mattina ha già prodotto un'analisi delle elezioni di ieri notte, e lui sostiene che in sostanza Trump risponde alla pancia degli americani, supera il Partito Repubblicano, che è ancora ancorato a vecchi principi antiaborto, antiassistenza sanitaria, che improvvisamente suonano vecchi. Ed è questa anche, devo dire, la differenza che c'è fra i due partiti. Mentre in campo democratico le differenze fra Hillary e Sanders sono minori, c'è una vera e propria crisi del Partito Repubblicano. Trump ci dice che la leadership del partito, la struttura del partito, non è più in sintonia con la base. E qual è la sostanza? Che, per esempio, se la leadership del partito è favorevole al libero commercio, la base lo è molto meno. Se la leadership vuole una forma di amnestia per gli immigrati illegali, la base invece la respinge, e Trump ha capito prima di tutti lo scollamento tra questa leadership e tra la base elettorale. Lo ha capito, devo dire, in modo che, come dire, ci preoccupa un pochino. Eppure finora resiste agli attacchi di tutti, persino agli attacchi che arrivano da personaggi, come dire, insospettabili. Meantime, the Huffington Post is reporting some of the biggest names in the tech world, including Apple CEO Tim Cook and Google co-founder Larry Page, took part in a secret weekend meeting with Republican politicians and advisors. Ecco, la notizia ci racconta di un incontro, tra virgolette, segreto fra Tim Cook, che è l'amministratore delegato della Apple, e il cofondatore di Google, Larry Page, e con l'amministratore delegato di Tesla, SpaceX, Elon Musk, perché hanno deciso anche loro di mettere in campo una strategia per fermare la corsa di Trump. Alla fine la corsa di Trump è percepita come una corsa fondamentalmente antidemocratica e pericolosa per la Costituzione. Ecco, anche costoro, che hanno potentissimi mezzi mediatici, scendono in campo. Ci riusciranno? Ma non lo so. Secondo me in questo momento la corsa di Trump sembra inarrestabile. Forse ha ragione Rahman, forse c'è qualcosa che ancora non capiamo di questo personaggio e che gli americani invece hanno già capito. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Oggi la dobbiamo dedicare a Bernie Sanders, l'irriducibile. Nonostante Hillary lo abbia umiliato in varie occasioni, non molla, riesce a vincere stati importanti e attira a questo punto l'attenzione del Partito Democratico, della base del Partito Democratico. Di Tupac, All Eyes on Me. Tutti gli occhi su di me. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where those cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally freed me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. A 500 Benz, wantin' flashy brains. Bitches pursue me like a dream. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.